insomma, è una persona molto attenta e sicuramente questo non sarà il solo film, ma avrà, secondo me, molto, farà molte cose, perché è una persona preparata, attenta e non fa niente a caso, insomma. Che uscita sarà? Uscita, chiaramente noi usciamo giovedì, che è il 7, che insomma c'è anche un po' il festival di Sanremo, insomma che è un po' un deterrente, però chiaramente sarà il problema per tutti i film. Comunque faremo un'uscita attenta, insomma piccolina, insomma ci avremo una trentina, quarantina di schermi, ma posizionati principalmente nelle capozona, perché chiaramente noi puntiamo che questo film possa avere un minimo di passaparola, cioè puntando, non facendo un'uscita che potrebbe essere così più grande, magari dispersiva, ma per esempio siamo chiaramente in tutte le città, Roma, Milano, Torino, Bologna, anche Firenze, insomma abbiamo tutto, usciamo in tutta Italia. A Roma per esempio usciamo all'Eden, al Quattro Fontane, all'Interstellare, anche al Cineland Ostia, al Lux, insomma a Milano all'Odeon, insomma abbiamo delle sale buone e attente anche al discorso del cinema di qualità, cinema diciamo con la voglia di mostrare un qualcosa di diverso che non magari il cinema americano. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Il professore cambia scuola di Olivier Aish Vidal da giovedì 7 febbraio al cinema. Un saluto e un ringraziamento a Pierfrancesco Aiello di PFA Films che lo distribuisce. Pierfrancesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te Federico, grazie alla radio, grazie, ciao, speriamo bene, ciao. Con Matteo Rovere, regista del film Il Primo Re, uscito in sala giovedì 31 gennaio 2019. Matteo, ben trovato. Ciao, ciao, buongiorno. Per chi ci ascolta, come lo racconteresti in poche parole? Beh, è un film sicuramente difficile da sintetizzare, sì. E da, come dire, da picciare, si dice in questo mondo, no? È comunque di, a parte gli scherzi, è la storia della fondazione di Roma dal punto di vista di questi due fratelli, Romolo e Remo, che raccontiamo come fossero reali, mentre chiaramente è un mito, no? Che è stato scritto poi in età successiva. Questi due fratelli vivono in un mondo arcaico dove devono proteggersi fra loro, dove devono, come dire, cercare di sopravvivere, perché la vita è qualcosa di molto importante, di difficile veramente da mantenere, e da lì appunto iniziano questa avventura che poi parlerà molto in realtà del destino, del rapporto con Dio, diciamo della, appunto della predestinazione, di una tutta una serie di elementi che poi esulano e portano il racconto assolutamente da un'altra parte a livello tematico e di senso rispetto a quello che ci aspetteremo, fino a questa fondazione di un nuovo ordine sul quale io poi do insomma nel finale una lettura che gli spettatori avranno modo di godere al cinema. Com'è nato il progetto? Il progetto nasce dalla mia volontà, voglia di fare un film che fosse un film d'azione, storico, quindi comunque con un grande impianto, produttivamente complesso, ma che raccontasse qualcosa di molto importante per noi, per la nostra civiltà, società, diciamo, mi permetto di dire, perché un po' insomma alla base, il seme, la fonte di questo mito poi ci racconta qualcosa che non è solo il discorso appunto della fratellanza, del mito fondativo e così via, ma ci racconta proprio la costruzione da parte di un uomo, di un nuovo ordine che in qualche modo deriva dal sangue, no? Perché noi poi siamo sempre critici, secondo me giustamente, con l'imperialismo, gli americani, parliamo sempre molto, no, della critica dell'imperialismo contemporaneo, senza dimenticandoci a volte che siamo stati i primi imperialisti, quindi come i primi a spargere il sangue in maniera strutturata nell'Occidente siamo stati noi, è stata la città di Roma ed è stato poi l'impero romano, ed è come se l'avventura di questi due fratelli potesse tirare fuori qualcosa del senso profondo che c'è dietro questa poi tragica successione di eventi che poi la storia ci ha consegnato. E quindi approfondendo poi appunto il significato della loro avventura viene fuori un remo che ha una visione più ateista, se vogliamo, più slegata a un destino dettato dal Dio, e un Romolo invece più Dio, più come dire, assoggettato il soggetto alle leggi divine di questo Dio che lui ritiene che lo stia guidando, dalla sintesi tragica anche di questi due personaggi in una maniera, se vogliamo, shakespeariana, insomma, mi ha ispirato forse molto il Macbeth, viene fuori un racconto appunto sull'origine della nostra civiltà che in qualche modo è una, ci parla, ripeto, di imperialismo, ci parla di contemporaneità, ci parla di tante cose che riguardano poi la tragedia, sì, sì, del contemporaneo. Quali sono state le fonti? Allora, chiaramente ho lavorato all'inizio con i testi di Plutarco, di Strabone, di Livio, no? Quindi tutti i testi di età imperiale, di età romana che hanno raccontato il mito, e quella è la parte, diciamo, più strettamente drammaturgica, quindi gli eventi, eccetera. A quelli ho affiancato ovviamente la lettura che ho voluto dare io con gli sceneggiatori. Il film si apre con una frase di Mogan, che poi è un commediografo contemporaneo, quindi siamo un po' noi che guardiamo il passato, che dice se un Dio può essere compreso non è un Dio, e quindi poi ci introduce proprio il racconto di come poi l'individuo si interroga sulla natura della divinità e del destino. A tutto questo ovviamente come fonte abbiamo affiancato gli archeologi, i filologi, una serie di studiosi della Sapienza di Roma Tre che mi hanno aiutato a costruire tutto in maniera fortemente appunto filologica e realistica, perché volevo dare allo spettatore un'immagine che non si era mai vista, diciamo, del passato remoto, quindi vera, non patinata. Gli attori non sono attori hollywoodiani con il capello pettinato e i denti puliti, ma appunto sono magri, sono deformi a volte, sono smunti, hanno quindi tutto questo per dare appunto un'immagine, un impatto estetico che dai costumi alla scenografia fosse realistico, sia appunto filologicamente che dal punto di vista di immagine e di spettacolo poi. Oh, il film è centrato su Remo, il guerriero. Per come l'ho vista io, quasi a simboleggiare il fatto che quando una comunità delimita uno spazio, lo fa suo, la creazione del confine storicamente ha significato spargimento di sangue. Sì, sono d'accordo con te. Nel senso che loro sono degli esuli, sono dei delitti, perché Plutarco ci consegna, nelle vite parlare, una frase molto importante. Plutarco dice Romolo fondò la città, diciamo, annettendo, includendo gli assassini, quelli che erano gli apolidi, quelli che non avevano una terra, non avevano una casa, quindi un po' come se Roma fosse nata veramente non voglio dirla male, ma diciamo dagli scarti della società del tempo, da quelli che non avevano un luogo dove poter dormire al sicuro e proteggersi a vicenda. Costruiscono ovviamente con il pomerio, no? Il primo cerchio, quindi un concetto primitivo di confine, e il confine in quel momento è sangue. Infatti poi, senza spoilerare, il film finisce con una mappa dell'Europa dell'epoca, dove vediamo questa macchia di sangue rossa che poi si diffonderà su tutto il mondo conosciuto allora, attraverso la Pax Romana, attraverso l'utilizzo delle tecniche politiche tipiche appunto dell'impero. Ecco, come notavi all'inizio e come ti ho detto anche in occasione della presentazione che hai fatto al Nuovo Cinema Aquila, è interessante questo binomio tra due entità, tra i due fratelli che fanno parte di un insieme e che contengono ognuno un po' del bene, ognuno un po' del male. E da una parte Remo che va contro gli dèi e poi cade in una sorta di delirio d'onnipotenza, e dall'altra il fratello che vuole una società di liberi e uguali, ma comunque soggetti alla divinità. Sì, sì, diciamo che il fratello durante il percorso, Romolo, che poi sarà il fondatore, vuole una società di liberi uguali, soggetti assolutamente alla divinità, che diventa una forma anche di controllo dell'individuo. Però cosa succede? Succede che nella morte, nel fratricidio, in quello che il mito ci consegna, quindi l'uccisione di Remo, è come se Romolo, e lo dice chiaramente nel monologo finale, prende qualcosa, diciamo, fa suo qualcosa del fratello, cioè qualcosa del fratello che entra dentro di lui, e secondo me quello è il sangue, cioè la caratteristica che l'impero non può, dal quale poi l'impero non può prescindere, che è comunque l'uccisione. Cioè Romolo alla fine lo dice, le persone dovranno sapere che dovranno tremare di fronte al nome di questa città e dovranno non sentirsi tranquilli quando arriveranno per chiedere asilo e così via. Questo elemento